È successo che abbiamo perso una battaglia importante, le forze progressiste hanno avuto un arretramento dovuto a molteplici cause, ma le principali sono state l'eredità che ha lasciato il governo della destra e che in questo poco tempo il governo non ha avuto la possibilità di dare molte risposte. Secondo, la divisione delle forze progressiste, si sono divise purtroppo questo virus in tutto il mondo. Fa strage. Terzo, una situazione di carattere politico molto difficile per il governo, perché l'eredità, le problematiche del governo di destra che ha lasciato al paese veramente è molto grosso. Uno di quelli è un problema molto grosso con l'immigrazione nel nord del Cile. In città come Iquique, Antofagasta, ci sono stati addirittura scontri con cittadini colombiani, venezolani che sono arrivati durante il governo di Piñera, è andato addirittura alla frontiera fra Venezuela e Colombia a prendere queste persone. Molti stranieri anche hanno acquisito diritto a voto, ma erano stranieri che erano di destra, che sono fuggiti da Venezuela e da altre parti. Oltre a quello c'è una situazione economica difficile, aggravata dalla pandemia, ma la cosa più importante secondo me è quella di ricostruire la rete unitaria delle forze progressiste che si sta pergretolando, perché la situazione è molto, ma molto, molto difficile. Quindi insomma è stato un voto che non ha riguardato la Costituzione in sé, ma il contesto anche politico. Naturalmente, perché la Costituzione, se tu la guardi in forma neutra, è una Costituzione molto buona, bella, diciamo, però è una Costituzione anche che fa fatica la gente in generale a accettare. Una gran parte della popolazione non accetta che siano consacrate diritti nuovi, per así decirlo, no? Tutta la situazione di genere, le nazionalità indigene, la cosa ecologica, tutto questo veniva consacrato nel progetto della Costituzione. In più la destra, prevedendo il pericolo di perdere tutti i privilegi che aveva con la Costituzione di Pinochet, hanno pagato molto, al di là che hanno tutti i mezzi di comunicazione in mano, ci sono state situazioni molto, molto violente, anche hanno picchiato addirittura il fratello del presidente. È stata una situazione molto difficile. Ora cosa succederà? Adesso, siccome c'è il mandato comunque costituzionale di mandare avanti, c'è stato un referendum precedente dove l'80% della popolazione ha detto che bisognava cambiare la Costituzione, o si fa una nuova costituente o si comincia a lavorare in una commissione speciale nel Parlamento. Le vie possibili per adesso sono due: una è parlamentarizzare la questione o rifare una nuova costituente e andare avanti, però le forze progressiste continueranno a chiedere la possibilità di fare una nuova costituzione.